avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe. Faccio subito una premessa. Non ho nessun pregiudizio nei confronti della caccia. Non è che non dormo la notte per la passera scopaiola o per il fagiano reale o per il cinghiale maremmano o per la lepre marzolina. Se uno nasce selvaggina è logico che qualcuno prima o poi ti debba cacciare. E questo secondo me non grida vendetta verso le leggi né umane né divine. Però devo dire, ci sono delle fattispecie su cui vorrei parlare questa mattina riguardo all'essere umano civilizzato, urbanizzato, metropolonizzato, che ancora prende un fucile in mano e va dietro della selvaggina. So che c'è in corso un ampio dibattito sulla liceità di cacciare o non cacciare. Questa mattina non mi interessa. Questa mattina interessa di capire come mai a un certo punto dei signori che tutta la settimana hanno in mano la penna oppure il volante della loro automobile oppure degli innocui oggetti come il loro iPhone, come il loro telefonino, come la loro calcolatrice, come la loro matita dei conti se vendono salumi o un'infinità di altre attività, a un certo punto il fine settimana prendono in mano un'arma da fuoco, che è un oggettino per niente tranquillizzante, qualcosa che nella sua accezione d'origine primaria è stato pensato per ammazzare, qualcosa dalla cui canna esce piombo arroventato a forte velocità con l'intento di dilaniare, spaccare, perforare carne, ossa, muscoli, tessuti connettivi, via dicendo, a fine di provocare ferite mortali o la morte. Questo serve un'arma, è inutile prenderci in giro. Poi no, il loro valore estetico, a me le armi piacciono molto, mi piace vederle, mi piace vedere la storia delle armi, mi fermo sempre davanti alle vetrine delle armi, hanno un certo fascino. Riguardo alla caccia, io ricordo che da ragazzo, siccome tutti i miei amici, quasi tutti, erano cacciatori, vivevo in una zona territorialmente propensa alla caccia, un certo giorno mi disse: ma anch'io voglio prendere la licenza di caccia. Quindi feci i necessari documenti, comprai le necessarie pubblicazioni, mi studiai tutto sugli uccelli, sulla selvaggina di passo, sugli animali di piccola, media, grande taglia, sulle leggi, sui regolamenti. Avevo già il tesserino del poligono di tiro, quindi non dovetti fare nessuna prova, ma sapevo che bisognava andare al poligono e sparare con la pistola. Non so perché, per avere un fucile in mano e la licenza per andare in giro con un fucile bisognava sparare con la pistola. Andai all'esame, detti l'esame, lo supererai, superai la prova pratica, ti danno in mano una doppietta, dovevi smontarla e la trappola era che dovevi prima vedere se c'era il colpo dentro. Tutti, chi non lo faceva veniva subito segato. Io invece riuscii a superare quella prova. Poi mi ricordo che non presi mai la licenza perché poi alla fine di andare a caccia non mi importava nulla. Il tema questa mattina è ben diverso. Qual è l'impatto di tante persone che vanno in giro con un fucile armato con delle cartucce dentro in grado di sparare e lanciare piombo arroventato? Beh, i dati sono abbastanza inquietanti. In un bollettino di guerra si parla di morti, di feriti in termini abbastanza importanti. Quindi evidentemente, al di là del problema della salvaguardia della selvaggina, dei poveri animaletti che soffrono, della bestialità e la barbarie dell'uomo che va a caccia, oggi non abbiamo più bisogno di procacciarci cibo, su queste cose vorrei passare un attimo, è un altro argomento, non mi interessa in questo momento la salvaguardia etica della selvaggina o delle specie animali. In questo momento mi interessa capire come mai esseri umani vanno in giro con un fucile che non sanno usare. Tutto come ci si era immaginato, un cacciatore di cinghiali che scambia per un animale il sacco a pelo nel quale dormiva sotto le stelle Don Francesco Cassol e spara. È andata così e Giovanni Converso Ardino, un operaio di 51 anni di Altamura, l'ha raccontato ai carabinieri davanti ai quali si è presentato per costituirsi, accompagnato dal suo legale. Due cacciatori si sono affrontati nel bosco dopo l'uccisione di una lepre, entrambi rivendicavano il possesso della preda, uno di loro è rimasto ucciso. Sul fatto indaga la questura di Lecco. una prima rassegna di alcune notizie di cronaca mi fa un po' sospettare. I miei tempi cacciatori erano persone che se ne intendevano. Ricordo lunghe chiacchierate con i cacciatori, tutte le persone che mi circondavano. Io vivevo in campagna, quindi i contadini, i fattori, i braccianti agricoli, le maestranze, erano tutti cacciatori. C'erano lunghe discussioni sulla caccia, sulla selvaggina, tutti avevano il loro fucile, lo tenevano in casa, lo pulivano, lo liavano, sapevano tutto, sapevano le garanzie. Non ho mai sentito dire di persone si sparassero addosso, se non per questioni di corno, per volontario desiderio di spararsi addosso. Casualmente era molto difficile. Perché? Perché c'era una sorta di tradizione lunga, diciamo era la generazione che comunque aveva fatto la guerra, erano i figli diretti di quelli che avevano fatto la guerra, e in tutte le case c'erano delle armi, o c'era dimestichezza all'uso delle armi. Soprattutto c'era il servizio militare. Il servizio militare, nella sua insulsaggine, se vogliamo, perdita di tempo assoluto, comunque per un periodo della propria esistenza metteva a delle persone responsabilmente in mano un'arma, insegnava loro qual erano l'uso corretto dell'arma, qual erano le metodologie e le garanzie nell'uso di un'arma, le attenzioni che bisognava fare. Quando si faceva una guardia armata ti spiegavano esattamente tutto il rituale, la liturgia della guardia armata, del cambio della guardia, era appunto lo scaricamento e il ricaricamento delle armi, il passaggio delle armi scariche, il riposizionamento del caricatore, l'attenzione a non mettere il colpo in canna e via dicendo. Garanzie, io da quando sono bambino mi viene detto l'arma è sempre carica, l'arma la punta al diavolo, la carica al diavolo, quindi io per imprinting familiare, fanciullesco, anche se mi metto in mano una pistola acqua, non la punto mai contro una persona, perché non so, del mio DNA mi è stato insegnato che un'arma non si punta mai, anche se si pensa che sia scarica, anche se è finta, anche se è un giocattolo. Con questo principio stai sicuro, perlomeno per sbaglio, non ferisci mai nessuno. Se ferisci qualcuno è perché vuoi farlo. Le vittime per armi da caccia durante la stagione venatoria 2009-2010 sono state un morto e 18 feriti tra la gente comune, 23 morti e 53 feriti tra i cacciatori, totale 24 morti e 71 feriti. Nella stagione attuale, a 2 mesi dall'apertura della caccia, sono già morte 12 persone e 15 sono state ferite. Andrea Turchi, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i suoi radioascoltatori. Andrea Turchi è direttore del poligono di tiro Pellegrino Parmense, Parma, sì. È anche giornalista, è un collega, collabora con varie riviste di settore come La Vetrina delle Armi, Armi e Munizioni, Diana Armi. Anche un suo sito, andreaturchi.org, Marksman, che penso che sia il suo spazio web privato. Sì. Lei è una persona che comunque professionalmente tratta le armi come un oggetto interessante, ma su cui bisogna comunque avere una cognizione. Sì. Lei trova che ci sia una preparazione adeguata e giusta all'uso delle armi o alla concezione cosa sia un'arma nel cacciatore medio italiano? Allora, facendo riferimento a quello che vedo direttamente all'interno della mia struttura, posso dire che il mondo del cacciatore italiano si divide in due categorie. Quello che vede lo strumento arma come strumento principale da utilizzare per la sua attività venatoria, quindi lo conosce principalmente, e quello che praticamente purtroppo non si interessa dell'arma, di per sé gli interessa più che altro l'ars venandi, la caccia di per sé. E quindi può capitare ed è capitato che vi siano imperizie o anche qualche volta incidenti, non nel mio caso specifico quello del poligono, però visto e considerato che non c'è più una cultura delle armi, come hai fatto riferimento prima, perché mano a mano che la cultura italiana è passata da una civiltà contadina rurale a una civiltà prettamente urbanistica, logicamente si è creato un blocco culturale dalle vecchie generazioni alle nuove. Guardi, io vi ricordo, io sono di origine campagnola, vissuto in mezzo ai contadini. Sul focolare, sotto, non proprio sul focolare, ma accanto al focolare di ogni casa dei contadini c'era la doppietta appesa. Ma i bambini sapevano esattamente, sin dalla tenera età, quale fosse l'uso di quella doppietta, l'abuso di quella doppietta. La doppietta sparava in famiglia quando il vecchio si sparava in testa per disperazione, o quando ci si sparava fra fratelli, fra cognati, fra zii per questioni di soldi o questioni di corna. Sennò normalmente era quasi impossibile che per sbaglio qualcuno si sparasse addosso, perché i bambini sin da piccoli gli si insegnava come pulivano il fucile. Ma quante volte ho pulito fucili e pistole io di persone di famiglia? Era una cosa normale, non c'era questa sorta di tabuizzazione dell'arma. Mi sembra che i bollettini di guerra, la scorsa stagione 24 morti e 71 feriti, oggi a 2 mesi l'ha aperto la caccia, 12 persone morte, 15 ferite, a me sembrano un po' tantini, non trova? Allora, la questione è questa qua, bisogna mettere una relazione al quantitativo anche dei cacciatori italiani e specificare se queste morti sono dovute a armi da fuoco o sono dovute a incidenti, perché è già capitato in passato, per la lunga polemica tra caccia e non caccia e tutto il resto. Ma io la tengo fuori questa mattina, non voglio parlare. Infatti, sul diritto, allora, è un altro argomento questo. Allora, in relazione al numero di cacciatori italiani, che alla fine chi ha licenza di caccia in Italia è un numero che si gira tra i 750 e 800 mila cittadini italiani, tenendo ad esempio i freddi numeri, statisticamente il pericolo di andare a caccia e di subire dei danni a caccia è inferiore a quello di andare a raccogliere dei funghi. Ah, quello stagione. Sicuramente, certo. Sì, perché c'è una totale imperizia, mettiamolo così, uno che va logicamente a raccogliere i funghi, facciamo un esempio, che viene dalla città, magari va a finire in un bosco, tipicamente io sono qui da Pinino Parmense e capita molto spesso che la gente si perda nel bosco perché non sa come comportarsi all'interno di un bosco, e quindi è facile che qualcuno si perda, non ritrovi più la strada o vada a finire dentro un calanco. Per quanto riguarda la caccia, qui ci sono, bisogna anche vedere formalmente in che situazioni si sono verificati questi incidenti, perché è capitato che un colpo sia partito perché un signore ha avuto in quel momento un infarto. Visto che ormai la caccia in Italia non è più una questione di carattere culturale tradizionale, quindi mano a mano stanno invecchiando i cacciatori, perché non c'è un cambio generazionale, tranne in certe zone rurali o soprattutto nel centro, nel sud Italia, o in particolari zone del nord Italia come del Bresciano, logicamente può capitare che, visto che i cacciatori cominciano a raggiungere età elevate, possono presentare anche problemi di carattere fisico. Le prime botte di rincoglionimento, chiaramente un fucile è sempre un fucile, se uno ci vede poco poi accade come nelle barzellette, capito? Sì. 800 24 00 24, il tema sia chiaro, è comprensibile, senza demonizzare la categoria di cacciatori, però ci poniamo un problema. Ci sono delle cifre, come giustamente dice il nostro ospite, vanno probabilmente interpretate, approfondite, che molto spesso sono usate strumentalmente da chi è ideologicamente, fortemente, illecitamente, ognuno ha diritto al suo punto di vista, ostile all'attività venatoria. Però è un dato di fatto che mi sembra che venga confermato anche in parte dal nostro ospite, che mancando ormai una tradizione continua nelle famiglie, negli agglomerati umani italiani, di possesso, di uso, di maneggio di un'arma, è facile che oggi venga considerato un'attività completamente strana a tutte le quotidiane attività di un normale essere umano, quello di avere un fucile carico in mano. Quindi chi ha argomenti da aggiungere a quello che stiamo dicendo, chiami all'800 24 00 24. Apertura della caccia. Quest'anno travolto dall'implacabile Filini, sempre assatanato da nuove tragiche iniziative, anche Fantozzi ha deciso di parteciparvi. Abbigliamento di Filini: berrettone Sherlock Holmes con penna alla Robin Hood, poncio argentino di una sua zia ricca, scarpe da tennis con sopra galoche, carte topografiche e trombone da brigante calabrese. Fantozzi: berretto bianco alla marinara di sua figlia Mariangela, giacca penosamente normale stretta in vita da gigantesca cartucciera da mitragliatrice, residuato della seconda guerra mondiale, fionda elastica, siero antivipera a tracolla, gabbietta con canarino da richiamo. Florindo, buongiorno. Buongiorno a lei. E adesso lei si arrabbierà un po' perché ha sentito Fantozzi e Filini che si sparano addosso con la fionda e con il carro armato. Però lei, come cacciatore, dica la sua riguardo quello che io sto cercando di sollevare questa mattina. Ma io penso, almeno spero di non essere fuori tema, io sono un cacciatore da varie generazioni, ho 56 anni, mi ricordo andavo a caccia con mio nonno. Concordo pienamente con lei che prima i fucili erano a fianco al caminetto. Ma la mia stessa età lei, quindi si ricorda esattamente quello di cui parlo. Benissimo, quando c'erano i cani vicino al fuoco, il fucile a fianco, e noi bambini facevamo quelle che faceva lei, anzi io a 10 anni caricavo anche le cartucce io dal mio padre. Sì, sì, però ma nessuno... lo so esattamente come si fa, l'ho visto fare, sicuramente. Nessuno si sognava di fare questo, però da passare... Cioè io conoscevo tutti i pallini, la dimensione di ogni pallino, ogni cartuccia. La grammatura, la borra, la borraccia, tutto, e così... Era la anche perché i pallini più piccoli, mi sembra del 6, non mi ricordo, che li usavamo dentro la carabina Diana, che costava moltissimo, la piombatura, si inceravano e si usavano come pallino nella carabina Diana, quindi li rubavamo per quello. Rubavamo per quello. Il discorso è che una volta, concordo anche con l'ospite suo, adesso non mi viene, non ricordo il nome. È Andrea Turchi, è direttore del poligono di tiro. Benissimo, prima eravamo 1800 cacciatori, adesso siamo diventati 750.000-800.000. Ma il problema è questo, noi cacciatori che amiamo la natura, perché io faccio sempre l'esempio, no? Il calciatore che ama il pallone giustamente non va in giro con un coltello a scoppiare i palloni, cioè è un'idea sciocca ma è un'idea, e noi siamo attenti alla natura, siamo attenti all'inquinamento dei fiumi, siamo attenti all'inquinamento dei ruscelli, siamo attenti alla selvaggina che è in surplus, tipo la gazzaladra, che sono dei rapaci che hanno distrutto tutti questi piccoli uccellini. Sì, ma io so perfettamente che quando l'attività venatoria è un'attività praticata da chi comunque aveva strumenti culturali per farlo, c'era un controllo del territorio molto i sentieri, le strade, il controllo, lo so perfettamente. Ma oggi quando vanno a caccia dei poveri coatti che tutta la giornata, tutta la settimana la passano in città e non sanno nemmeno dove si trovano, è a volte devastante. Comunque mi terrei al fatto delle armi, perché oggi il tema è quello, l'uso e l'abuso dell'arma da fuoco. Lei vede nelle generazioni più giovani, più recenti dei cacciatori una diversa dimestichezza nell'uso del fucile? Ma guardi, io più che una diversa dimestichezza vedo molto giovani che, molto meno giovani che praticano la caccia, perché giustamente la caccia, noi la chiamiamo sport e molti opinano questa parola. Però sì, non è uno sport, diciamo la verità, è un residuo dell'antica attività venatoria. Non abbiamo più bisogno di cacciare per vivere, ma ci piace rimanere cacciatori perché è un'immersione in qualcosa di arcaico e sconosciuto che non trovo per niente negativa, che ancora qualcuno piace. Sì, benissimo, però molte volte si vengono demonizzati, no? Sì, vabbè, questo è un altro argomento, parliamo dei fucili. Che si va con un'arma, dico io, no? È chiarissimo che si va con un'arma e bisogna fare 10.000 attenzioni, però come tutte le cose, insomma, può capitare l'incidente. A lei è mai capitato? A me fortunatamente no, però è capitato a qualche amico mio che casualmente... ecco, qual è la situazione tipica in cui può capitare un incidente? Uno vede muovere una fronda, prende, allora, spara e c'è dentro il prete, allora, dentro il sacco a pelo, sì, come è successo. Sì, sì. Ma quello prima di tutto non è un cacciatore, è un bracconiere. È uno che va in certi posti dove non si può fare, lo potrebbe fare anche un non cacciatore quel lavoro là. Lei capisce benissimo, certo, che in Italia ci sono milioni di armi, e in tutte le case ci sono le armi, anche se dichiarate, ma solo col porto d'armi, senza licenza di caccia, e non vengono richiamati come fanno a noi almeno ogni 6 anni, molte volte anche ogni 3, dall'ufficiale sanitario, a vedere se sei sano mentalmente e tutto. Questo è giusto, questo mi sembra una giusta questo violenza. È il problema, che molte volte dice il cacciatore ha sparato, invece vai a vedere, non è un cacciatore ma è uno che possiede un'arma e c'è il porto d'armi rinnovato 30 anni fa. Quindi molte volte, diciamo, delle regole, delle griglie di controllo ci sono e non vengono seguite, quindi naturalmente... Le griglie di controllo ci sono verso i cacciatori, che noi ogni 6 anni dobbiamo fare il certificato sanitario, poi ogni 2-3 anni a campione veniamo richiamati per rifare il certificato di abilitazione alle armi. Il problema più grosso, e in molti casi, è l'avventuriero, quello che va la prima volta. Io sono un cacciatore di cinghiali, sono una squadra di cinghiali, la mattina si va con delle regole, se tu non rispetti le regole è chiaro che là c'è la fucilata. Poi diciamo, l'ammunizionamento da cinghiale è una cannonata, non è che mica... Ma è una cannonata, sì, perché ti ammazza anche a 300-400 metri, allora si va con le regole, bisogna rispettare le regole, tutti dobbiamo rispettare le regole, che poi sono regole basilari, regole semplici. Non mettersi sulla linea di tiro, stare attento a questo, stare attento a... Allora, resti un attimo in ascolto. Guardi, io devo dare la linea alle informazioni della borsa, visto che lei è molto competente, assieme al direttore del poligono di tiro, cerchiamo di stabilire quelle che sono le regole e dare delle indicazioni di attenzione a chi comunque andasse senza grande provvigione di nozioni balistiche e venatorie in territorio di caccia. A tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. I carabinieri hanno già arrestato il suo assassino, un suo amico che l'ha ucciso per errore. Verso mezzanotte Aliberti, già visibilmente ubriaco, nel bar ha avuto una discussione per futili motivi con un extracomunitario. È corso a casa, ha preso il suo fucile ed è tornato nel bar. L'extracomunitario ha cercato di calmarlo, così come Angelo Boldrini, che in ogni modo ha tentato di dissuadere l'amico dall'usare l'arma. Ma lui non ne ha voluto sapere. Ne è nata una colluttazione durante la quale è inavvertitamente partito un colpo che ha centrato all'addome il barista. Spaventato per ciò che aveva fatto, Biagio Aliberti è fuggito via con la sua auto davanti a numerosi testimoni. Questo è uno dei tanti episodi di cronaca in cui si capisce che il possesso, la detenzione, anche se lecita, di un'arma molte volte non corrisponde a un principio assoluto di sapienza nella gestione di quest'arma. Questa persona, dopo una lite, è andata a prendere l'arma a casa. Cosa l'è andata a prendere a fare l'arma? Per spaventare, inavvertitamente poi ha colpito. Quindi è un omicida per errore. Uno non dovrebbe mai essere omicida, ma soprattutto non esserlo per errore. Questa mattina stiamo cercando di capire qual è il corretto rapporto con un'arma sportiva, quindi per uso venatorio, quindi non si parla di armi da difesa o di armi da offesa o di armi da guerra, l'arma per l'esercizio venatorio, che è un fucile da caccia, che è fra l'altro una fiorente industria che è l'orgoglio di molte parti del nostro paese. Nel bresciano ci sono fabbriche, industrie di armi che sono rinomate in tutto il mondo, quindi anche un notevole indotto, anche questo va comunque considerato. Ma ci sembra di capire dalle testimonianze di Florindo, cacciatore di antica data, che è ancora al telefono, dalla testimonianza di Andrea Turchi, direttore del poligono di tiro Pellegrino Parmense, che in realtà forse occorrebbe una maggiore attenzione nel colmare quel divario di sapienza generazionale, che una volta era gioco forza nelle famiglie, uno cresceva, già sapeva qual era il corretto uso e l'attenzione nel confronto delle armi da fuoco, oggi non c'è più. Andrea Turchi, rispetto a quello che abbiamo detto, ha qualcosa da aggiungere? Quando viene qualcuno al poligono di tiro a fare la prova per prendere il patentino di caccia, in cosa consiste questa prova? Allora, per inciso, in questo istante io, essendo una struttura privata, non ho la possibilità di dare i patentini, perché a livello nazionale si fa riferimento ai vari regolamenti regionali e nazionali, e in cui le varie federazioni della caccia più che altro collaborano con i poligoni istituzionali, l'Unione Italiana Tiro Segno e i TSN nazionali. E ci sono in ogni città? Allora, dipende, per una vecchia legge del periodo del antecedente, perché diciamo la verità, il tiro a segno nasce con Giuseppe Garibaldi, che lo fondò alla fine dell'Unità d'Italia per addestrare gli italiani eventualmente per i futuri conflitti, per completare l'Unità d'Italia. Per quanto riguarda, per legge sono nei principali, nei capoluoghi di provincia tendenzialmente, o nei vari centri abitati di maggiori dimensioni oltre capoluogo di provincia. Quindi il cacciatore deve andare in un poligono di tiro di questo tipo per avere, diciamo, l'abilitazione all'uso dell'arma? Per avere l'abilitazione e avere la licenza di caccia, alla fin dei conti. Sì, mi ricordo, la licenza, l'esame era in due parti, una parte legata alla selvaggina, alle leggi e regolamenti, un'altra proprio all'uso e alla capacità di usare l'arma. È ancora così, adesso qui faccio riferimento per quanto riguarda l'Emilia Romagna. C'è logicamente la prova, potremmo dire, scritta e orale, in cui il cacciatore deve sapere conoscere praticamente tutte le specie di animali cacciabili e non cacciabili sul territorio, certo, nazionale, sì, sì. Anche quelli non riferiti alla zona da cui abita, magari il martin pescatore, che non è tipico magari della zona della Pino Parmense, comunque deve sapere che non è animale cacciabile. E poi c'era la prova con l'arma da fuoco, quella dello smontaggio, e regole di sicurezza alla fin dei conti, più eventuale prova a fuoco. Per quello non è cambiato nulla, bisogna logicamente fare riferimento a strutture, qui per la legge italiana e per consuetudine si fa riferimento a strutture di carattere istituzionale, essendo il TSE nazionale, l'unità di tirocinio istituzionale per antonomasia, con direttori di tiro riconosciuti, e quelli possono ridare attestato o riconoscere. Mi scusi, una mia curiosità: la prova di fuoco non si fa con un'arma da caccia con munizione spezzata, si fa tutt'al più con un fucilino, con una pistola, poi mi ricordo calibro 22 o 38. Allora, da poligono. Lei ha fatto praticamente il porto d'armi per uso caccia, sì. Il prete di Calo. La questione è questa qua, lì dipende in che poligono si trovava il poligono di riferimento. Visto che c'è una coerenza di strutture a lunga distanza in Italia, un tempo praticamente era consuetudine avere poligoni con distanze fino a 300 metri, ma dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il cambiamento culturale che vedeva l'utilizzo dell'arma come riferimento al vecchio ventennio, mettiamola così, e più l'interesse dei terreni del demanio dello Stato, perché erano tutti del demanio militare, alla fine i poligoni italiani, escludendo quelli privati, era logico molti poligoni vennero chiusi o subirono. Insomma, in sintesi, al poligono non si spara col fucile da caccia, si spara con un altro tipo di arma. No, perché deve fare un porto d'armi per uso caccia, quindi se il poligono che lei è andato in quel momento non ha purtroppo linee che possono consentire l'utilizzo di un'arma lunga. Più che arma lunga, arma con munizione pallini, che è diverso, non credo che al poligono si possa. Allora, no, perché in Italia la legge sulla caccia prevede sia armi a cannaliscia che armi a cannaliscia, sì. Tendenzialmente. Sì, però una rosata di pallini ha una superficie 3 metri, per questo beccano il prete nel sacco a pelo, magari con la munizione a canna rigata non l'avrebbero preso, ecco, probabilmente. Beh, dopo lì dipende, perché il cacciatore di cinghiale tendenzialmente non usa, dopo dipende dalle zone d'Italia, per tradizione e per abitudine, si usano o il pallettone, quindi pallini di grosse dimensioni, come lei mai saprà, o se no logicamente la palla asciutta, cioè una palla unica direttamente dal peso di varie decine di grammi. È un bel cilindro di piombo che se arriva spezza metà. Sentiamo qualche ascoltatore, fermiamoci un attimo. Andrea che ha perso un cane. Sì, buongiorno. Cosa è successo? Io vivo a Torino e qui c'è una grossa collina vicino alla città in cui in particolare io vivo, la collina della Maddalena. C'è un grosso parco, il Parco della Maddalena, in cui ci sono delle case, insomma, sono delle zone residenziali. Però la caccia si svolge all'interno di questo parco, in particolare la caccia al cinghiale. Si svolge all'interno di questo parco in modo... Ho perso un cane 10 anni fa, stavo passeggiando col cane e insomma gli hanno sparato. L'hanno preso per un cinghiale? Esatto, sì. Ed è stata una cosa terribile, perché insomma ci sono drammi ben più grandi, però perdere No, un cane io capisco, in quel modo, vedersi un cane sparato da un cacciatore non è una cosa allegra. Sì, anche perché come raccontavate prima, insomma, essere colpito da una scarica di pallettoni, di piombino, non so, io non caccio. Sì, no, non è bello, è una però... cosa, riduce il cane in uno stato... penoso. Sì, diventa marmellata. Io personalmente non sono assolutamente contrario alla caccia, anzi è una cosa che un po' mi attira, nel senso non la vedo malamente. Quello che però trovo sciocco è cacciare così vicino alle case, perché io penso che esistano dei regolamenti che salvaguardano queste distanze. Se hanno sparato al suo cane e stanno vicino a casa sua, evidentemente non hanno osservato questi regolamenti. Sentiamo Claudia, buongiorno. Buongiorno, sono in linea? Certo. Sì, io volevo rifarmi a quello che diceva il primo signore del poligono quando parlava dell'aumento dell'età media dei cacciatori, che è una cosa innegabile. Mentre conosco tanti vecchietti a cui è stata tolta la patente di guida perché man mano non hanno superato gli esami, che sono tra l'altro invecchiando sempre più ravvicinati, giustamente. Lei vede degli umarelle col fucile da caccia in mano e trema. Scusi? Lei vede degli umarelle, cioè degli ometti anziani, sì, col fucile da caccia e ha paura. Intanto non conosco assolutamente nessuno a cui è stata tolta la licenza di caccia per motivi di età, di salute, eccetera. E poi, come dice lei, gli umarelli che non hanno più neanche il fisico, diciamo, per scarpinare per i boschi, per cui diventa sempre più frequente vedere la macchina parcheggiata sul bordo della stradina di campagna, ma pubblica, diciamo, asfaltata, con accanto il cacciatore. Lo so che è proibito, dalla strada non dovrebbe neanche imbracciare il fucile, però non ha più la forza di fare altro. Io penso che sarebbe importante modificare le norme per rendere molto più ravvicinate e più severi questi esami per l'età. Sentiamo Florindo, il cacciatore che ha parlato prima in prima parte. Florindo, le risulta, come dice la nostra ascoltatrice, che non ci sia poi attenzione verso il cacciatore non più in grado di usare un fucile in maniera corretta? Ma mi risulta esattamente il contrario, perché quando ci sono degli incidenti di caccia, di solito sono persone relativamente giovani, che la foga, la cosa di tirare un po' al vuoto, di non stare attenti all'animale che è cacciabile, di non avere quelle piccole precauzioni che quando si passa un posto bisogna aprire e vedere cosa rimane dentro, se il fucile è ostruito, è esattamente il contrario. Io penso che non c'è un'età che magari uno cammina con un po' di artrosi, non abbia la testa a posto, magari ce l'ha più a posto di uno di 20 anni che ne ha viste di cotte e di crude. Diciamo il cacciatore anziano comincia a sentire qualche problema, magari ci sta più attento, non si addentra tanto, ci pensa 10 volte, non è che si appoggia al fucile come se fosse un bastone o spara solo se vede muovere. Questo volevo che lei mi rassicurasse. Sono sicuro di questo, che le persone anziane sono molto più attente dei giovani. Cioè, io ho visto dei cani, chiaramente cani di cacciatori, essere scambiati per cinghiale, ma stia tranquillo, che non è il settantenne che lo scambia per cinghiale, è il trentenne che vuole prendere per forza il cinghiale perché è andata così. Anche perché un cinghiale corre 10 volte più forte di un cane e fa più casino in mezzo al bosco, si capisce subito. Ci fermiamo solo un istante per dare le informazioni del traffico, a fra poco. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt. Stiamo parlando di controllo della perizia del cacciatore nell'uso dell'arma da fuoco. Molte ascoltatrici che scrivono su Facebook naturalmente tendono ad alzare il livello del loro sdegno nei confronti di chi pratichi l'attività venatoria. Scrive Lia: cacciatori umani intendo, oggi conosciamo altri modi per tenere sotto controllo il proliferare della popolazione animale. Sparare ormai è solo un atto non dettato alla sopravvivenza. L'eccessivo testosterone, mal usato tra l'altro, quindi c'è una sorta di mal riposta desiderio di esprimersi virilmente, secondo questa ascoltatrice, attraverso la protesi immaginaria del fucile, che altro non è che un prolungamento di altre appendici, secondo lei, mal usate. Chi vuole proprio sparare può sfogarsi nei centri di tiro. Peraltro, se i cacciatori si feriscono e si uccidono tra loro per sbaglio, ben venga, ottimo controllo della loro proliferazione. È un po' estrema, però. Possibilità di esprimersi anche all'ascoltatrice Lia. Abbiamo Giuseppe. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei è anche direttore di tiro di un poligono e cacciatore. Sì, esatto. Quindi può darci una più dettagliata esperienza su quello che sia veramente il livello di perizia medio di un cacciatore nell'uso dell'arma. Sì, quello che volevo dire è questo. Io vivo in provincia di Bologna, dove c'è sempre stata una tradizione venatoria. Negli ultimi anni, con il calo, diciamo negli ultimi 15 anni, c'è stato un calo della selvaggina da penna o da pelo, diciamo lepre, quelle cose tradizionali. È un proliferare dell'ungulato. Cioè cinghiali, volpe. Sì. Volpe no, capriolo, dai. Ma le volpi non si può tirare, vero? Poi le volpi oggi se ne vedono più golpi che gatti ormai. Le volpi bisogna essere abilitati per tirare, se no sono problemi. Ci vuole un'abilitazione particolare nella provincia di Bologna, un patentino particolare che non viene concesso con facilità. Perché anche nel Lazio, nell'Abruzzo e l'Umbria, passando la sera per i centri abitati, sì, certo, in campagna io vedo più volpi che gatti ormai vicino ai cassonetti. E l'abbandono dei rifiuti poi, principalmente. I cassonetti sono pieni di volpi, ormai la volpe si vede come si vedevano una volta i cani, i randagi e i gatti. Esattamente, esattamente così. Volevo dire il discorso, questa involuzione della caccia verso l'ungulato ha fatto sì che molta gente avesse abbandonato la caccia, diciamo i vecchi cacciatori a penna, quelli a pallini, diciamo a piombo spezzato. E si sono riconvertiti in selecontrollori, perché la provincia di Bologna poi ha fatto dei corsi per controllare questi animali, anche perché ce n'è veramente un surplus. Qui nella provincia di Bologna i caprioli li troviamo negli orti a Casalecchio di Reno, vicino a Bologna, dentro quasi in città ormai. Quindi il capriolo va cacciato per recuperare, diciamo, il territorio? Sì, non c'è pericolo di estinzione tranquillamente. Daino, cervo, anche qui viene concesso l'abbattimento a cacciatori che che hanno conseguito abilitazioni particolari. Volevo dire una cosa, questo è il discorso. Sono vecchi cacciatori che si sono riconvertiti dal pallino alla, alla palla unica, alla carabina rigata. Ora, nei giovani io devo andare in controtendenza con il... Io sono un ex cacciatore perché ormai mi diverto solo un po' al poligono così per bucare un... Sì, ma ho capito perfettamente il suo discorso. Una cosa è sparare a pallini con un fucile a pallini, che è un'arma più tranquilla. Una cosa è avere un'arma per sparare un cinghiale o un capriolo superiore, è quasi un'arma da guerra, perché sono calibri a tutti gli effetti. La potenza e la gittata sono quelle di un'arma da guerra tranquillamente. C'è anche da dire una cosa, ha la stessa munizionamento quasi di un fucile d'assalto, quindi è un'altra cosa. Sicuramente quello è blindato, questo è espansivo per avere un effetto sull'animale più letale. Il discorso che volevo dire è questo: nei vecchi cacciatori, vado in controtendenza al cacciatore che ha chiamato prima, io noto una certa presunzione, perché sono persone che hanno 20-30 anni di licenze sulle spalle e quando si raffrontano con queste armi nuove, come una carabina o semiautomatico o otturatore, quelle cose lì, quando si cerca di dare un consiglio loro sul poligono, come sull'utilizzo, quelle cose lì, dicono: ma io ho 30 anni di licenze, cosa mi volete insegnare? Dico: guarda che la carabina è un mondo completamente diverso, va affrontato, va pianificato in maniera... Sì, ha anche un contraccolpo che in effetti sulla spalla... No, è peggio un 12. È peggio un 12? È peggio un 12, sì. Una carabina mediamente più controllabile di un 12. Un 12 è più violento. Però, diciamo, ha una palla che va più lontano, diciamola così. Sì, però voglio dire, in un bosco, mentre una palla di un... Mi sembrava che prima il direttore di tiro, il presidente del tirassegno, parlasse di pallettoni, perché i pallettoni sono vietati. Non si usa più, sì, certo. Sono vietati per legge per la caccia, su palla unica o in canna liscia o in canna rigata. Diciamo che la lupara si usa solo per i delitti di mafia ormai. Sì, assolutamente sì, credo. A parte che usano i Kalashnikov, mi sembra più hanno più a buon mercato i Kalashnikov di una doppietta. Comunque sia, voglio dire, un calibro 12 a palla di piombo rispetto a una carabina è molto più pericoloso, perché ha dei rimbalzi più imprevedibili. Quindi la sintesi del suo discorso è questo: è cambiata la fattispecie. A un certo punto si diceva, eravamo negli anni 80 fino agli anni 90, non c'è più selvaggina, quindi gli antichi cacciatori hanno appeso la doppietta al chiodo. Poi improvvisamente sono apparsi cinghiali, caprioli, daini in grande quantità. Quindi c'è stata la necessità di ricontrollare il territorio, di cominciare a cacciarli. Però serve un'altra arma, con arma di concezione diversa, un'arma a palla unica, un fucile otturatore, un'arma che richiede altro tipo di perizia. Quindi il vecchio cacciatore, tutta la sua esperienza con la doppietta, dovrebbe riconvertirla nell'uso della nuova arma, e questo probabilmente non sempre accade. Molto chiaro. Spartaco. No. Spartaco. Sì, ciao, buongiorno Nicoletti. Che è successo? No, ti volevo dire che gli incidenti purtroppo succedevano anche 30 anni fa, nel senso, anche i vecchi cacciatori non è che sbagliavano. Non sbagliavano mai, perché mio zio, andando a caccia una mattina, ha impallinato un suo amico, in poche parole. E gli ha fatto male? Che era andato, scusami, a caccia prima di lui, poco prima di lui, era a fare i suoi bisogni. Allora, accucciato, diciamo, come sempre accade al cacciatore nel momento di pausa, è stato impallinato nel più vergognoso dei momenti. Ma si è fatto molto male? No, è andata bene. Io ora ero piccolo, avevo 8-9 anni, mi ricordo questa scena perché la raccontava mio babbo a casa, perché, come dicevi te... Cioè, gli hanno tolto i pallini dalle zone molli con la pinzetta. Più o meno. Vabbè, un'impallinata sulle chiappe, capita. Non è esattamente, diciamo, il tipo di incidente di cui parliamo oggi, ma mi sembra aver comunque fatto un passo avanti nella chiarificazione di una quelle potrebbero essere le possibili motivazioni di questo allarmante bollettino di guerra, che fa sì che il cacciatore con un fucile in mano forse dovrebbe avere qualche attenzione in più rispetto a quelle che aveva una volta. Grazie a Fabrizio Intonti, grazie a Valerio Rocchetti, grazie a tutti gli ospiti, ci sentiamo domani. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.